X24 di Giovanni Minoli. Siamo qui tutti quanti, musulmani, cristiani e di tutte le altre fedi, per lo stesso scopo, per difendere la famiglia. I bambini hanno bisogno di un papà e una mamma, secondo me, quindi hanno proprio bisogno, anche perché vedono poi l'asilo, scuole, le mamme, cioè i bambini che hanno la mamma e il papà, e loro magari vedere due papà o due mamme gli farebbe strano magari. Magari i due omosessuali potrebbero essere i genitori migliori del mondo. Contro le unioni omosessuali si è schierato il cardinale Angelo Bagnasco. La famiglia non può essere uguagliata da nessun'altra istituzione o situazione, ha detto il presidente dei Vescovi. Family Day, che Bagnasco ha definito una manifestazione condivisibile e dalle finalità assolutamente necessarie, perché la famiglia è il fondamento di tutta la società. Don Gino Rigoldi, dunque Family Day, Don Gino Rigoldi, che è cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano dal 72, il fondatore di Comunità Nuova. Il suo ultimo libro si intitola Non amate troppo Dio, pubblicato da Rizzoli. Don Rigoldi, allora, un prete che consiglia di non amare troppo Dio? Sì, sì, ma in realtà, perché la proposta è fondamentale, è che io credo che ci sia una grande ignoranza in amore, nella capacità di volersi bene, in relazione. E bisogna ricominciare a guardarsi in faccia, a darsi valore, a cercare le modalità per costruire alleanze, per fare progetti comuni, ecco, dove ciascuno, che poi è una sapienza umana, si sta bene umanamente, ed è anche una sapienza divina, il comandamento del Signore, certo, comanda di volervi bene. Ma per esempio, Don Rigoldi, no, ammettere la fecondazione eterologa è o non amare Dio? Ma adesso questa è una domanda così, non saprei dare no, sa perché? Perché le faccio una risposta. Allora, le leggo, sa perché le faccio questa domanda? Sì. Perché le leggo questa lettera. Sì. Una lettera apparsa su Repubblica che dice: "Non mi pare sia irrispettoso verso la religione ricordare che il primo caso di maternità surrogata è quello dal quale inizia il racconto del Vangelo, cioè il concepimento di Gesù da parte di Maria per opera dello Spirito Santo. Ecco, un evento nel segno della gratuità e dell'amore, seguito da un'adozione da parte di Giuseppe, padre putativo e non biologico." Ecco. Gli attori sono diversi, da una parte c'è Dio, da una parte ci sono gli uomini. Sì, certo, però è un esempio fortissimo in un certo senso. Sì, questo è vero, sì. Cioè, questo esempio in qualche modo aiuta a parlare di fecondazione eterologa. Sì, sì, sì, sì e no, insomma, perché il dislivello è troppo grande. Un uomo è Dio, Dio è il creatore della vita, quindi è una faccenda... Appunto, dà un esempio fortissimo proprio. Si può leggere anche così. Sì. Don Rigoldi, nel suo libro lei ricorda che Gesù ha voluto lasciarci un solo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ecco. Allora, le unioni civili, se c'è amore, vanno bene. Se c'è amore, sì. L'amore è il contenuto fondamentale del matrimonio, certo. Ma quando lei dice anche la Chiesa è un arcipelago, esattamente cosa significa? Che ci sono tante opinioni? Significa che ci sono opinioni abbastanza diverse, alcune molto rigorose, altre molto orientate alla misericordia, come Papa Francesco. Perché di fronte a un comportamento che non ti pare giusto, la prima cosa da fare è: cerchiamo di capirlo bene, cosa è capitato, cosa mi chiede la persona che si comporta in maniera diversa da quello che io immaginerei di fare. Ecco. È così che si fa ad andare a quello delle persone. Esatto. Dire che elencare, mettere la linea tra i buoni e i cattivi non appartiene al Vangelo. Non appartiene al Vangelo. Ecco, adesso appunto, rispetto al Family Day, per esempio, che è voluto da una parte del mondo cattolico, sembra, mi corregga se sbaglio, che Papa Francesco abbia in qualche modo zittito il cardinale Bagnasco, che è sostenitore del Family Day. È vero? È così? Si può leggere in qualche modo come una presa di distanza del Papa da tutti i vescovi o i cardinali che si mescolano nella politica? Ma guarda, io non so se è capitato qualcosa adesso così, ma pensando al comportamento di Papa Francesco è immaginabile che abbia un bel fastidio per i Family Day, sì, credo di sì. Un bel fastidio, ecco. Ma perché infatti c'era un colloquio previsto tra Papa e Bagnasco, è scomparso dal bollettino di Casa Pontificia. Sì, quindi sì, questo sì, significa che il suo fastidio è forte. Beh, è una possibilità. I comportamenti di Papa Francesco non sono mai quelli delle contrapposizioni, ma quelli del dialogo. Quindi, certo. E siccome si può immaginare che questi Semini Dei sarà un atto piuttosto energico contro di critica contro chi appunto è sì. di fatto è compagnia bella, no, queste robe che il Papa non piacciono, no. Ecco, quindi da, in qualche modo se uno lo legge in relazione all'appoggio di Bagnasco al Family Day ci può stare. Ci può stare tra le ipotesi, sì. Senta, Don Rigoldi, parliamo di adozione, la Bibbia ne parla? La Bibbia credo che ne parli, sì, ci sono, ma c'è tutta una legge, la legge anche che il fratello che muore, i figli diventano, la moglie addirittura diventa moglie, beh, non ha avuto figli per questo. Certo. Diventa moglie, no, cioè avevano, la politica era molto familistica, il gruppo si sosteneva, quindi certamente. Ecco, ma è vero che lei vive con 10 ragazzi in casa addirittura, che come se fossero suoi figli adottivi o qualcosa del genere? Ma io ce ne ho tre miei figli adottivi davanti al tribunale, più 12 che sono invece, sono ragazzi del Beccaria, quelli che hanno reati un po' gravi, sono maggiorenni, certo. Io vivo insieme e la mia famiglia, ma io ci sto anche bene. Certo, ah, beh, lo credo, se ci sta lo immagino, e in fondo quindi se un prete può adottare addirittura 10 ragazzi, una coppia omosessuale può adottarne uno, no? No, tre. Tre, vabbè, devi è tre. Allora, una coppia omosessuale uno lo può adottare, no? Ma sì, credo sì. Ma se parliamo del figlio del compagno, no? Sì. Immagino il figlio del compagno stia anche con l'altro compagno. Quindi certo. C'è già una situazione educativa, affettiva familiare. Familiare, esatto. Dopodiché, mi pare giusto che ci siano i percorsi di idoneità, quelli che fanno tutti per adottare qualche bambino, certo. Quelli che il tribunale dei minorenni prevede, dopodiché anche perché va privilegiato il benessere del bambino, la tutela del minore ovviamente. Ecco. Senta, nel momento in cui è idoneo basta. Senta Don Rigoldi, il Cardinal Martini quando era vescovo di Milano le disse: sento che lei fa delle cose in città, se qualcosa non va sarò io a chiamarla. L'ha mai chiamata per dire che c'era qualcosa che non andava o no? Mai. Bene, vabbè. Mai. Quindi... qualcuno è andato a lamentarsi dall'arcivescovo, e l'arcivescovo ha detto, un personaggio molto importante della città e dello Stato, lei è maggiorenne, Don Gino è maggiorenne, cosa dire? Vedi che io gli bacchecco la mano a Don Gino. Lo chiama, dice lei, dica a lui la sua protesta. E qual era la protesta, si può sapere? Era che ero troppo esposto a criticare dei comportamenti, credo, o del governo o di qualche intervento di repressione della polizia. Una roba del genere. Se non si ricorda bene il nome. No, senta, Don Rigoldi, le faccio un'ultima domanda. Lei scrive che ogni strada può essere tentata perché ad amare si impara. Cosa vuol dire? Assolutamente si impara. L'amore non ti capita. Ti capita di essere innamorati, ma poi dopo ci devi investire, devi conoscere bene la persona che hai davanti, accettarla con le sue risorse, anche con i suoi limiti, condividere tempo e pensiero con lei. Se non si cammina con la persona amata, l'amore sfuma, se ne va via. Insomma. È un processo, non è un fortunato evento. E in realtà a me pare che la debolezza del matrimonio di oggi, oltre a tante altre problemi, è il fatto che questi ragazzi non sono capaci di volersi bene. Questo è il fatto della certo, si innamora, ma si innamorano ma non si vogliono bene. Perché volersi bene, nel tempo, accetti i limiti, cioè, è una gioia enorme. Essere innamorati, io penso che quando saremo in paradiso... La cosa più bella del mondo. Il paradiso sarà che saremo eternamente innamorati di tutti gli uni degli altri. No. È lì il paradiso. Speriamo di andarci. All'inferno credo non ci sia mica nessuno, proprio essere cattivi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Adesso affrontiamo un altro tema che in modo diverso coinvolge e sconvolge le famiglie e la politica italiana. In borsa, infatti, lo vediamo anche stamane, le banche continuano a scivolare, l'attacco speculativo di cui si parla anche nell'intervista del Sole 24 Ore del direttore Roberto Napoletano al Presidente del Consiglio, sempre più forte, delegato anche all'arrivo del bail-in che ha sorpreso tutti i risparmiatori che a questo punto non sanno più bene che cosa fare. Da noi il momento della consapevolezza drammatica è arrivato con il suicidio di Luigino D'Angelo, il risparmiatore toscano che aveva perso i suoi soldi nelle obbligazioni subordinate della Banca Etruria, lo ricorderete, con la banca in cui aveva investito i suoi risparmi e che non era riuscito più a recuperare. Massimo Giannini a Ballarò l'altro giorno ha fatto un'intensa intervista alla vedova d'Angelo che merita di essere riascoltata. Questo è un primo stralcio che parte da quel tragico giorno del suicidio e dall'emozione della vedova, poi ne parleremo. Provo rabbia perché non doveva andare così. Eravamo una bella famiglia, unita. Non si usciva da casa se non eravamo io e lui, lui e io. E in che momento avete deciso di investire i risparmi di una vita, no? Investirli in quelle obbligazioni di Banca Etruria. Ma non era una decisione nostra il modo di investire. Noi avevamo dei risparmi e parte di questi risparmi ci veniva consigliato il modo di investirli. E poi ogni volta che rientravano c'era detto ai titoli che ci chiamava a casa, che era diventato, diciamo, quasi un amico. Era lui che ci consigliava la formula migliore per investire questi risparmi. Ma lui sapeva, l'ha sempre saputo, il modo che mio marito intendeva investire, conservando il capitale. E vi veniva detto che i vostri soldi investiti in quelle obbligazioni erano al sicuro? Sì. Cioè un investimento che non comportava rischi? No, quello erano 110.000 euro, erano parecchi. Lei sa, signora, ha visto in queste settimane che la linea di difesa di quella banca, ma direi non solo di quella banca, è che si firma un questionario e i risparmiatori sanno che quando sottoscrivono quei titoli incorrono in un rischio. Andò così per voi? No. Cioè, voi firmaste comunque un questionario, ma nessuno vi disse che quell'investimento era a rischio? No. E non vi fecero neanche leggere? Assolutamente. In quelle carte, la parte in cui sicuramente ci sarà stato scritto, ma era magari a caratteri infinitesimali, in cui si dice che si può perdere anche parte del capitale. No. Voi, nessuno vi è mai sottolineato tutto questo? Ci metteva davanti soltanto il foglio da firmare e basta. Cosa accadde a giugno 2015? Accadde che è arrivata una lettera del commissario, perché la banca era commissariata, sì, dove diceva di recarsi in banca perché il suo profilo non è adeguato agli investimenti che lei ha fatto. Ecco. Quindi da giugno scattò una sorta di allarme per voi anche, no? Un piccolo allarme. Perché siamo andati e ci hanno detto: ah, ma queste sono lettere che mandano di routine, ma non vi preoccupate, questa è una lettera che mandano in automatico, tranquilli, tranquilli, tranquilli, tranquilli. A settembre arriva un'altra lettera, ma la stessa. Siamo ripartiti, siamo tornati, abbiamo riparlato con l'addetto ai titoli, solo che questa volta mio marito non era tanto tranquillo. Ha detto: io voglio parlare col direttore. È arrivato il direttore: ma no, ma non si preoccupi, sono lettere che mandano periodicamente, state tranquilli, state tranquilli, state tranquilli. Dice: ma io non sto tranquillo, perché la seconda lettera c'è qualche problema. No, guardi, tanto ci abbiamo lo stesso investimento, sia io, l'ha detta ai titoli, già ce l'aveva detto a giugno, e il direttore ce l'ha ripetuto. Che anche lui aveva investito nelle stesse obbligazioni. Anche i familiari. Tutti. Tutti. Mm-hmm. Dice, le pare che se c'era qualche rischio, mio marito un po' meno sicuro, no, della volta sai precedente. Cosa c'è? Facciamo una cosa, anche se ci rimetto non mi interessa niente, rivoglio i soldi. Ah. Così. Ma no, ma non ti conviene, ma perché, ma per come, ma per cui. No, no, no, no, io rivoglio il capitale. L'hanno tranquillizzato: ma non vale la pena, adesso ci rimetteresti. Siamo andati via. Però da quel momento mio marito ha iniziato a fare delle ricerche e lì ha capito che c'era un problema. E da quel momento tutti i giorni andavamo in banca. Allora si sono probabilmente scocciati. Dice: va bene, visto che non riusciamo a convincerti, facciamo venire una consulente d'Arezzo. Così sicuramente dissiperà tutti i vostri dubbi. Ok, quel pomeriggio andiamo, arriva questa signora. Ma signor D'Angelo, stia tranquillo, lo stesso tipo di investimento ce l'ho io. No, ma avevano studiato sicuramente lo stesso copione, tutti. La regina gli ha detto, io rivoglio i miei soldi, anche il costo di rimetterci. Gli ha detto, va bene, non mi volete da tutto? Mi dà il 70%, ma contento. Non c'era verso. Da quel momento un'ossessione. Nel momento in cui il governo, in quella maledetta domenica, vara il cosiddetto decreto salvabanche, no? Sì. Lui cosa le diceva? Che era finito tutto, che era carta straccia. E la sua ripeteva di continuo, non sono stato in grado di tutelare la mia famiglia. Un peso terribile, non è stato in grado di tutelare la sua famiglia, queste le sue ultime riflessioni, ma è davvero così, Mario? Era una responsabilità solo sua? Cioè... No. Mi spiace perché è una storia terribile. Ed è una testimonianza che secondo me dimostra come la responsabilità di chi fa il gestore del risparmio familiare sia enorme. Io che sono un sostenitore diciamo di provvedimenti della responsabilità quindi, dell'investitore di quello che capita col Belin, no? Non ripetiamo perché continuano a chiederci esattamente cosa cioè vuol dire. Io penso che l'azionista debba pagare, che l'obbligazionista cosciente del suo investimento debba partecipare, però deve essere messo in condizione di poter scegliere. Però questa è la dimostrazione, secondo me, più lampante del fatto che poi c'è un profilo di risparmiatore che non è in realtà un investitore, ma è uno che cerca di salvare il proprio capitale, di metterlo al sicuro, e non viene supportato in maniera sufficientemente corretta. E questo è l'aspetto grave, diciamo. Da parte di... questo è un aspetto, secondo me, posso dire... Secondo me è un aspetto penale. Cioè, certo. Proprio... E per te, Pietrangelo, dove non finisce la responsabilità del risparmiatore? Che naturalmente c'è perché fa un'azione che investe, e dove inizia invece quella delle banche? Sempre su questo punto della chiarezza? Sì, e dell'equilibrio. Il risparmiatore di suo ci mette la minestra, la banca di suo dovrebbe mettere il sale. E la responsabilità si costruisce nel condire questa minestra, ed è inaccettabile che il sale assorba tutta la minestra, ed è quello che succede purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi. Scusa. Dove le banche dettano legge sull'esistenza dei singoli e sul destino delle aziende. Solo tecnicamente c'è un passaggio che va spiegato, no? Dalla testimonianza della signora, quando dice non mi volevano più restituire niente, dice io gli ho chiesto il 70%. In realtà quelle obbligazioni non avevano già più mercato, non valevano da niente. Mesi, quindi è stato ingannato per questo, non gli hanno detto subito che il suo investimento era perso. Fregato praticamente. Dai, questo ecco, è il punto. A Davos in questi giorni proprio sono riuniti, come dire, i cervelli più prestigiosi della finanza, sicuramente dell'imprenditoria. Ricchi sicuramente. Esatto. Intelligenti, ecco. Vediamo. Allora, intelligenti. Ecco, io voglio farvi sentire una cosa che ha detto a Davos ieri Domenico Siniscalco, che è stato ministro dell'economia con Berlusconi e vicepresidente di Morgan Stanley. L'Italia ha stentato a riconoscere la crisi delle proprie banche. Quando tutte le banche europee, dalla Spagna all'Irlanda, alla Germania, erano oggetto di salvataggi pubblici, da noi si negava che esistesse un problema, che invece ovviamente c'era. E c'era anche perché in Italia il PIL, il prodotto interno lordo, è caduto di quasi 10 punti percentuali, ci sono stati 100.000 fallimenti di imprese, pensateci, quindi non è che i nostri banchieri fossero meno attenti di altri, ma semplicemente che la nostra economia reale aveva preso una gran botta e questo si era riverberato sulla situazione delle banche, che sono i principali prestatori dell'economia reale. Beh, che dici, signor Scalco? Non un problema di banche, banchiere, ma di economia reale. Beh, insomma... Allora, io ho stima di signor Scalco, è un ottimo cervello. Assolutamente. Però è vero quello che dice sul crollo dell'economia reale, eccetera, però allora mi deve spiegare perché le sofferenze sono improvvisamente schizzate a crediti deteriorati a 300 miliardi e sofferenze reali a 200. Questo è un punto sul quale anche secondo me le banche hanno una responsabilità. Poi si possono fare tutte le campagne che vuoi sull'Europa. Si è parlato sempre del sistema solido, poi si scopre che invece le sofferenze sono tante e che in Europa bisogna andare a trattare, come scrivi anche tu e come dice nell'intervista al direttore del Sole, anche Renzi, il presidente Renzi. Perché in realtà si è proceduto con l'illusione tutta italiana che bastasse, parliamo della crisi del 2011 per essere chiari, che bastasse lavorare sui conti pubblici, ristabilire un clima di fiducia sulla rimborsabilità del nostro debito pubblico, perché quello era poi il tema, e procedere con una manutenzione più forte del bilancio dello Stato. In realtà si è visto che, come ha detto Siniscalco, l'economia poi reale, quella privata, andava male. Questo si è ripercosso subito sui bilanci delle banche e i crediti si sono tecnicamente, si dice, incagliati. Ecco. Questi incagli non sono emersi subito, però, e tra l'altro erano anche precedenti, parliamoci chiaro. Quindi insomma, ci sono responsabilità di tutti. Infatti, risparmiatore, ci scrive un nostro ascoltatore, dovrebbe sapere quello che i trafficanti di soldi sanno ma tengono nascosto. Questo è un po' il tema, Pietrangelo. Dai suicidi degli imprenditori siamo arrivati a quelli dei risparmiatori, anche disinformati, perché non hanno avuto l'informazione, come dicevi tu, la ministra del Sale, insomma. Beh, se non hanno l'informazione, qualcuno dovrebbe preoccuparsi di farle arrivare queste informazioni ai risparmiatori, così come agli imprenditori, anche spiegare quello che succede il 24 giugno del 2015, ricordiamolo, nella sala riunione della sua azienda, con un colpo di fucile si toglie la vita Egidio Maschio, che è stato il re dei trattori, che era capo di un'azienda che ha raccontato il successo e la rivoluzione delle partite IVA nel nord-est. Questa storia, questa vicenda, al di là della tragedia personale, non è stata mai raccontata fino in fondo, proprio perché ci sono delle responsabilità precise delle banche che non hanno nessuno scrupolo a richiedere il mal tolto rispetto a una situazione che poi porta beneficio non soltanto all'esistenza degli imprenditori, ma anche del tessuto intorno, certo, dell'economia intorno. E quindi, certo, piangiamo la morte di Luigino D'Angelo e ricordiamo anche che cosa succede agli imprenditori come Egidio Maschio. E infatti, torniamo allora al racconto della vedova D'Angelo a Ballarone, nella sua parte più emotiva ed emozionante. Venerdì, prima che succedesse quello che è successo, la mattina lui era deciso, già stava sul portone che andava giù a picchiare qualcuno in banca. Io sabato alle 4:30 l'ho attaccato addirittura, alle 4:40 Luigino non c'era più. Quindi lei mi sta dicendo che 20 minuti prima lei ebbe una sorta di discussione con lui? Sì. Perché lei cosa gli diceva? Basta, far prendere da questo. No, io quello gli dicevo, non ci importa niente, basta che stiamo bene. È la salute prima di tutto. Dico, tu così t'ammali, ti fai venire un infarto. E lui cosa le ha risposto quando lei ha provato a scuoterlo in questo modo? Ha detto, non ce la faccio io a reggere una situazione del genere. E 10 minuti dopo non c'era più. Luigino era l'uomo più buono della terra. Altruista. Se poteva fare del bene, se ne privava lui di momenti suoi per dedicarsi agli altri. Amante della famiglia. Io e mia mamma eravamo il suo universo. Era una persona allegra, una persona espansiva, solare. Allegra, solare, amante dello sport. Amava sciare, bicicletta, camminare a piedi. Poi suonava con la banda municipale, ma noi avevamo 1000 progetti per la nostra vecchiaia. Già ci avevamo pianificato per altri 40 anni. Perché l'ha fatto? perché l'hanno ferito nella sua intelligenza, perché non se n'era accorto quello che gli stavano facendo. E quando se n'è accorto era troppo tardi. Ha cercato, nel limite del possibile, di riparare. Non ci è riuscito, si è sentito preso in giro. E lui, Gino, lascia sul suo computer una sorta di lettera d'addio, no? Dove vi chiede scusa, le chiede scusa per quello che ha fatto e scrive, se non ricordo male, non lo faccio per i soldi, ma per lo smacco che abbiamo subito. Ci può dire cos'altro c'era scritto in quella lettera? Ricapitolava 6 mesi di calvario che ha passato. Ha fatto un riassunto in un foglio di 6 mesi. Cosa si sente di dire, se è possibile dire qualcosa ai manager di quella banca? Io lo so che resteranno impuniti, io sono certa. Però l'augurio che le posso fare è passare le notti insonne come le passo io. Io mi affido alla magistratura, sperando che riescano loro a fare un po' di giustizia. Senta, signora, dopo la tragedia, lei ha sentito qualcuno più vicino, anche nel mondo della politica? Lo Stato si è voltato dall'altra parte. Nessuno. Io un segnale l'ho avuto, uno. E cioè? Berlusconi. Che ha fatto Berlusconi? Ci ha mandato un bellissimo telegramma, cosa per me fuori dal mondo, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Berlusconi dopo la tragedia le ha mandato dopo un telegramma? Dopo la tragedia, calcolando che noi siamo di tutt'altra parrocchia, come si suol dire. Voi siete, quindi, siete sempre stati di sinistra, diciamo? Sempre. Un telegramma di vicinanza, di affetto. Ed è stata l'unica testimonianza che voi avete ricevuto? È stata l'unica. Da parte del governo? No, assolutamente. E lei prova risentimento per questo? No, ho aperto gli occhi. Ho capito chi sono questi che ci governano. Lei crede ancora nello Stato? Crede ancora nelle istituzioni? Ma ci dobbiamo credere per forza. Altrimenti è finito tutto. Ma una testimonianza veramente forte, drammatica, inaspettata, sorprendente anche questo silenzio del governo, che è in genere molto attivo su tutte le disgrazie, per fortuna, un problema locale. Sue e le... Ecco, ma io vorrei ripartire, Mario, da questo titolo dell'intervista del Sole 24 Ore di oggi, che è importante, del direttore napoletano al presidente Renzi, che dice: c'è una manovra su alcune banche, ma il sistema è solido. Allora, è così? Allora, che c'è una manovra su alcune banche, questo è sicuro. Chiamiamolo col proprio nome, la banca, perché in meglio, cioè MPS, è chiaro, indagherà la magistratura, la Consob, vediamo che cosa tirano fuori. Ogni volta che la Consob indaga non si trova niente, però... Dice nell'intervista il Presidente: a questi prezzi MPS è un affare, quindi ci sarà pronto qualcuno a comprare? Sì, a questi prezzi è un affare, però ha bruciato tutto l'aumento dei capitali. Siamo quindi di nuovo lì. Siamo di nuovo capo a 12. Detto questo, ovviamente MPS è una banca che non può fallire. Nel senso che per il sistema Italia vale il paradigma all'interno, in questo caso del too big to fail, è impossibile. Non è tollerabile per tutto l'equilibrio del credito. Tu dici, però, ti voglio fare una domanda rapida. Tu dici nel tuo articolo oggi sul Foglio, dici una cosa molto precisa: bisogna prepararsi al confronto con la Merkel del 29, mi sembra, quando è il 28, il 29, tra Renzi e la Merkel, con temi molto precisi molto concreti. Solidi. Sì, ecco. Perché nell'ultima riunione, io pubblichiamo oggi sul Foglio il mio pezzo, dove riveliamo un documento, ovviamente è un documento riservato, interno, dove nell'ultima riunione, il 13 gennaio, i tedeschi hanno fatto muro totale discutendo di unione bancaria sulla condivisione dei rischi in un fondo europeo. E quindi bisogna arrivare con un dossier preparato. Sì. Sulla bad bank, anche lì, bisogna ottenere qualcosa lì. Non ci sono ancora ora i termini per arrivarci, ci sono dissidi molto forti in questo momento, anzi visioni differenti, chiamiamolo così, tra l'ABI e il governo. Ma lo scambio con i soldi da dare alla Turchia per... È una mossa intelligente di Renzi dal punto di vista della trattativa diplomatica, cioè io non ti do i soldi per i tre, sono 3 miliardi insomma, che l'Europa deve bank, dare alla Turchia, oppure io non ti do questo. Devo però sottolineare che quando parliamo di quella quota là è una partita piccola rispetto a quella del credito, certo, in Italia 300 miliardi e in Europa 300 milioni, 300 milioni contro 300 miliardi, contro 300 miliardi italiani, insomma, è una partita, guarda, tutta la seguiremo tutta, sì, molto delicata. C'è un clima, lo dico da 2011, dentro le istituzioni, che non va bene. Senti Pietrangelo, per chiudere, tu come te lo spieghi il silenzio del governo? Perché questo governo non è Italia, questo governo non è popolo, questo governo non fa politica, altrimenti la politica dovrebbe tenere a bada chiunque, attenti letteralmente, è il caso di dirlo, all'esistenza e alla vita dei cittadini. Posso sia quando sono cosa? Investitori, sia quando sono imprenditori. Certo. Mi concedi un secondo? Io penso che il Presidente del Consiglio e ovviamente il Sole 24 Ore abbiano fatto bene a fare questa intervista e a cercare di rimettere le cose al loro posto. Sì. Le banche italiane hanno problemi, ovviamente, ma non sono... Insomma, diciamo una cosa, il Sole ha fatto una proposta precisa, quella di semplificare i prospetti, che la gente sia messa in condizione di capire che cosa fa quando investe. Dobbiamo recuperare. Diciamo che ripartire di lì è un punto di partenza. Dobbiamo recuperare la fiducia dei risparmiatori italiani all'interno e la fiducia dei trader e degli investitori da fuori, perché insomma questa operazione è chiaro che viene da chi opera con grandi masse sul mercato. No? 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 SMS pubblicità. Mix 24. Vincenzo da Pescara, buongiorno. Buongiorno ai suoi ascoltatori. Dica tutto. Guardi, io volevo portare una mia testimonianza, mi occupo di ristrutturazioni di aziende che hanno problemi, aziende in crisi, fortunatamente oggi ce ne sono molte. Quando mi fa colloquiare il sistema bancario, trovo la totale indisponibilità da parte loro a trovare soluzioni alternative al passaggio alla famigerata sofferenza. La cosa bizzarra è che ogni volta che si propone una soluzione in termini di moratori, in termini di prendere tempo eccetera, si trova il gestore vuole sbrigarsi a scaricare la pratica all'ufficio legale e una volta che una banca inizia si allineano come effetto domino tutte le altre. Quindi insomma dica. Le racconto un aneddoto veramente bizzarro. Rapidamente però. Sì, un'azienda che opera nell'edilizia piena di immobili, proprio piena di immobili. L'imprenditore cerca di propone di soluzioni in termini di dare la possibilità di terminare cantieri e poi venderli e ricominciare immediatamente. E allora il proprio business, la banca che fa? La banca passa la pratica sofferenza, non vuole sapere. Cioè, perché il problema tende a trasferirlo agli altri uffici. Va bene, c'è bancari invece che banchieri. Grazie Vincenzo. Beh, insomma, le storie sono tante, ci scrivono da ogni parte, ognuno racconta la sua storia. C'è chi ci dice, Enrico ci dice, vogliamo introdurre il tema della consulenza finanziaria seria, indipendente, certo, e come sia boicottata dal sistema bancario. Sì. Insomma, ci sono veramente questo... Il tema dei premi e incentivi questa situazione a vendere robaccia. Scoperchia veramente, e forse però si posso potrà andare verso una situazione posso più chiara. Posso spezzare una lancia a favore dei bravi gestori di risparmio, pieno di gente in gamba, che fa bene questo mestiere in Italia. E infatti è quello che chiedono. Canzone Pietrangelo. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Tassista ieri sera Pietrangelo mi ha detto: ma perché non va più in metropolitana? Perché non va vado in metropolitana? Ma non ne parla più. E me l'avete proibito. Devo dire tutto, lo dico, ve l'hanno proibito. Ma non è vero. Ma come no? Ma sì, detto, quest'anno niente metropolitana. E invece, guarda, ce la chiedo a gran voce. No, pensa, ci vado. Va bene. Però questo è successo camminando. Camminando, mi sono ritrovato davanti a un negozio. Sai quei negozi, devo dire, un po' tristi, quelli che vendono gli animali, no? Sono rimasto lì. È triste perché l'animale deve essere libero. Oh, e che c'entra? Gli animali devono vivere la libertà, non le gabbie. E allora davanti mi sono ritrovato. Avete presente proprio le bocce dove ci stanno dentro i pesci a nuotare? Non c'erano pesci, ma c'erano due anime perse che non sapevano distinguere il cielo blu bello dal dolore. Poi non capivano quale fosse la paura e quale il sorriso, poi neppure la capacità di distinguere tra una consolazione e un imperioso comando. Insomma, è successo che stamattina ha telefonato Lucia, ha detto che voleva dedicare una canzone. Ho immaginato per Renzo? No, ha detto per Valentina. Io voglio conoscerla, devo parlare. Verrà, la stanno cercando. Ci devo parlare Mario, in maniera. C'è la bolla? Sì. Allora, alla gioia, Beethoven. C'è un giro di ambasciatori di Renzi che è bene raccontare, perché sta interessando molto le cancellerie europee e la commissione, eccetera. Perché non di solo Calenda, Carlo, tanti auguri, buon bocca al lupo, buon lavoro, vive la diplomazia renziana. La giostra è in corso, carriere che si bruciano, vedi quelle del l'ambasciatore Stefano Sannino, che è stato sostituito appunto da Calenda, altre che fioriscono. E la cosa interessante è che c'è tutto un giro tra Washington, Roma e le cancellerie appunto e le sedi permanenti in Europa, che dovrebbe consentire a Renzi di fare una politica europea un po' coordinata più, e pensata più assertiva. Vediamo se avrà ragione. Comunque Calenda va alla rappresentanza permanente dell'Unione Europea, Claudio Bisognero, che oggi è ambasciatore a Washington, diventerà rappresentante permanente presso la NATO. A Washington ci va Varricchio, che è bravissimo. Ci va Varricchio, che è il consigliere diplomatico molto bravo di Renzi. E Mariangela Zappia, che era la NATO, torna a Roma a fare ella la consigliera diplomatica di Renzi. Come vedete, c'è tutto un risico, un giro intorno che segnala un attivismo del Premier. La domanda è: la partita è nel mondo. La partita è nel mondo, in Europa in particolare. Vediamo che cosa farà. Domanda: ci riuscirà? Certamente. Lo scopriremo. Salamino! Il giglio magico diventa giglio stellare. Allora, ogni click diventa clack, ogni clack diventa click. Telefonate pure, perché tanto ci sarà il controllo totale su comunicazioni, navigazione in rete, messaggistica, condivisione, social network e pissi pissi bau bau. Avrà tutto un controllo grazie a Marco Carrai. No, si chiama Marco Matteo, Marco così, Carrai. Sì, non sì, è così, sì, sì, l'amico del cuore, vero, vabbè, l'amico del cuore di Matteo Renzi. Si fa di tutta erba un fascio. Ma no, perché sarà ben più che uno 007, ma un consulente. Perché consulente. Sì, Giovanni, ieri si possono fare consulenti. Certo, altro che. E allora arriva l'amico del cuore di Matteo Renzi, che nel question time di ieri, la spiegazione che hanno dato i ministri ieri in Parlamento, ha avuto il suo esito. E quindi, se Marco Minniti, persona seria, è stata rinnovata a lui la fiducia, il giglio magico divenuto stellare ha dato un più consono ruolo a Marco Carrai, e il ruolo potrebbe essere definito così: che poliziotto di ogni bassotto, come una freccia nella notte. Ed è in effetti sì, perché con quel musetto un po' così, con dai, quella, facciamo la fisionomica. No, però c'ha quell'espressione da furbizia da calcolatore. Oh, sono pur sempre 150 milioni. Ma non sono mica per lui. Da gestire, ma li deve gestire. No, non lui, si bisogna fare le gare da chi parto. Sparte alla meglio parte. Insomma, Carrai, però diciamolo, non ha lo charme di Sean Connery. I giornali di regime pubblicano le sue fotografie sempre col cravattino solachino che dir si voglia, così per cercare di dargli quell'aria un po' così da agente segretissimo in missione segreta. Insomma, però io faccio mie le parole di Antonello Caporale oggi sul Fatto Quotidiano. Che dice Antonello? Dice: non si sa dove finisca lo Stato e dove invece inizi la famiglia Renzi, gli amici di Renzi, le virtù di Renzi, anche i vizi di Renzi. Però ricordiamolo, Marco Carrai è riservatissimo, fu lui a procurare la casa, casetta in Canada, a Renzi, a Firenze, i giornali di regime si danno da fare, ma insomma poi diciamolo, da chi è stato difeso ieri? Perché da chi? Renzi stava braccia conserte silente, silente braccia conserte, sì, Parlamento. A parlare al Question Time invece è andata lei, bravissima, la sua, la bellissima, la tosta Maria Elena Boschi, che però, com'era quella canzone? Ma da quale canzone? Quale? Posso? No, basta! Sì. Urlava i correntisti con scarsa pietà. Ma dai, non è possibile. Eh sì. Ma c'hai tanta fantasia, ma sempre tu lei. Tu dici, perché il Metropolitano non lo racconti più? Perché se raccontassi quello che succede in Metropolitana... Però fammela sentire la sua gente, la gente canta in coro questa canzone. Quel tipo un po' furbetto, che affari che fa? Ma scusa, è suo papà! Dai, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, pubblicità. Mix 24. Dai, riproviamo col canzoniere, vediamo. Dai, se va meglio. Sì, vediamo. Potrei qui esporre di fatti in un albero genealogico l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Valentina da Catania, c'è Valentina, no, Mario, Valentina, me ne vado, no, Valentina da Catania, Valentina, signori, buongiorno, ascoltatori, mi buongiorno alzo. Dottore Minoli, buongiorno, mamma mia, ma deve parlare direttamente col dottor Buttafuoco, sì, scambiatevi messaggini. Dottore Buttafuoco, buongiorno, come sta? Buongiorno, bene, sa benedica. È diventato rosso. Allora ci allora, dica. Allora, dottore Minoli, il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello. Madonna, giusto. Fantastico. Bravo. Che fa, Valentina, di bello lì a Catania? Dottore Minoli, allora, sono madre, prima di tutto, di due figli. E poi lavoro, mi occupo di contabilità in un'azienda di famiglia. Le posso dire una cosa al volo, dottore Minoli? Deve. Guarda l'intervista che lei ha fatto della vedova di D'Angelo. Sì. Mio padre diceva sovente, tempo fa, quando... come noi siciliani siamo pragmatici, quando abbiamo due lire di soldi li investiamo sempre nei beni immobili, diceva sempre. Ah, dice, dava un consiglio. Beh, gli italiani, anche non i siciliani, sì, lo fanno. 82% come lei sono proprietari, sì, di case. Grazie Valentina, auguri, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. C'è ancora una bolla, Mario? Sì, facciamo un po' di cose sul mercato. Allora, ci sono un sacco di cose, però prima di dare notizie al mercato, magari le diamo in chiusura se riusciamo. E il Vaticano e Goldman Sachs sono uniti nel sostenere il Brexit, o meglio, il non exit del Regno Unito dall'Europa. E come interessante come alleanza. Sì, è una bella coincidenza, perché l'arcivescovo... Perché cosa dicono? Paul Gallagher, che è l'arcivescovo che ha i rapporti tra gli stati, quindi è una sorta di ministro degli esteri, diciamo, del Vaticano, ha dato un'intervista televisiva dicendo: meglio dentro che fuori, ovviamente premettendo che rispetterà il voto degli inglesi. E quindi, diciamo, c'è una posizione di un esponente importante della diplomazia della Santa Sede che è per restare in Europa, nell'Unione Europea. L'altra cosa molto interessante è che Goldman Sachs sta finanziando la campagna di Cameron e altri e così via per restare sempre in Europa. Quindi, diciamo, c'è una volontà delle istituzioni affinché gli inglesi restino dove stanno con noi. Cioè restano un piede dentro, un piede fuori, perché poi sì, beh, hanno non la è sterlina, che sono, si hanno sono la sterlina, sono gli inglesi fanno sempre inglesi un po' il comodo loro. Sono molto bravi, sarà pure la perfida Albione, però insomma sono molto bravi a fare i loro interessi. Questa è la bravura, è proprio quella. No, ma infatti come i tedeschi d'altronde, no? Quindi gli anglosassoni hanno questa capacità. Mi pare che noi invece capacità. Su questo capacità non è altissima, no? Posso aggiungere una cosa? Poi... Non ci occupiamo di Putin da parecchio tempo, però ha dei problemi economici enormi, non piccoli. Sì, perché il rublo oggi sta andando malissimo libera, sul dollaro. Beh, ma perché questo crollo del prezzo del petrolio sta mettendo in ginocchio molte economie. Anche chi lo produce, però, chi l'ha determinato. Sai, perché quando hai una sola fonte di ricavo è dura. Diventa veramente un grosso problema. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. This is a different kind of war. There are no marching armies or solemn declarations. Così il presidente Lyndon Johnson. Sono i primi mesi del 65, l'esercito dei Viet Cong sta mettendo in ginocchio la più grande potenza militare del mondo. Alla vigilia di una campagna di massicci bombardamenti, il presidente angosciato chiama i suoi collaboratori, comandanti in capo, consiglieri, deputati del Congresso e perfino un ex presidente come Harry Truman. Per la prima volta possiamo ascoltare queste inedite registrazioni, le voci della storia su quella guerra maledetta, le telefonate di Johnson dalla Oval Room, i segreti della Casa Bianca e un'altra verità sul Vietnam. Qui a Mix24, il giallo della storia dopo il giornale radio. E per chiudere vorrei sapere da Gloria Guerrera qual è il criterio col quale sceglie le canzoni in generale e oggi cosa ci propone. Oggi ho scelto La banda di Mina per quella meravigliosa sensazione che ci fa cambiare umore con la musica. Mazza, accidenti. Andiamo con la banda. Brava Gloria. Mai, ma poi la banda arrivò.